sei, fatti vedere. Voglio la tua faccia almeno una volta, la mia paura ha paura di me, è scalza perché non vuol farsi scoprire. Io che ho vissuto per anni sulle ali del mondo, ed ora sei tu che vuoi sbattermi giù. Ma perché non ritorni nel buio? Tu buio sei e per questo io sarei per te. Non meriti me, serve strisciante, non vali nemmeno una briciola di ciò che ho. Non conosci le stelle e nemmeno lo sai, le nascondi, io le cerco, ma un giorno vedrai. Sarà un lampo momento che le troverò, io le stringerò al cuore e tu caduto sarai. Sorry.